Radio 24 Reportage. Professione astronauta. Incontro con Luca Parmitano di Gigi Donelli. Luca Salvo Parmitano è nato a Paternò il 27 settembre del 76. La sua strada verso lo spazio passa da un liceo scientifico a Catania, da un anno di studio all'estero. Dal 95 entra in aeronautica partendo da Pozzuoli. Nel 99 intanto si laurea in scienze politiche alla Federico II di Napoli. Ma dal 2001 l'addestramento in Texas, in Germania, naturalmente in Italia. Dal 2007 è pilota sperimentatore. E due anni più tardi consegue un master in ingegneria del volo sperimentale presso l'Istituto Superiore dell'Aeronautica e dello Spazio di Tolosa, in Francia. Poi, nel maggio del 2009, viene selezionato nella squadra aeronautica dell'Agenzia Spaziale Europea. Il 28 maggio 2013 parte con la Soyuz DMA-09 dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, in direzione della Stazione Spaziale Internazionale. Primo viaggio nello spazio con permanenza di 6 mesi. Il 9 luglio del 2013 è per 6 ore e 7 minuti nella cosiddetta passeggiata spaziale. Parmitano diventa così il primo astronauta italiano a svolgere attività extraveicolari. Fly me to the moon, let me play among the stars. L'ho incontrato per la prima volta al Kennedy Space Center in Florida nel 2011. Assistemmo insieme al lancio dell'ultimo shuttle europeo. Era la missione STS-134 con Roberto Vittori a bordo. Allora era un neoastronauta in attesa di missione. Oggi, che ha in tasca 166 giorni in orbita, è un astronauta di successo. Risiede alla NASA in Texas, dove svolge tra l'altro il compito di ufficiale di collegamento tra il Corpo Astronauti Europei, che ha sede a Colonia, in Germania, e la capitale del volo occidentale, a Houston. In tutto questo, devo dire, resta una persona molto cortese che trasmette un grande entusiasmo per quello che fa. Con lui allora ripartiamo dalla Luna. In questo 20 luglio, che è anche il 45esimo anniversario dell'allunaggio di Armstrong e Aldrin. Allora Luca, ne hai parlato martedì a Parma in un incontro al Festival della Parola, condotto tra l'altro da Tito Stagno, il giornalista che con il suo "ha toccato" annunciò all'Italia, a molti di noi, il compimento della missione. Per me questo anniversario è in realtà doppio, perché proprio 5 anni fa, nel 2009, io ero appena stato selezionato come astronauta, per cui proprio in questi giorni si celebravano i 40 anni dell'allunaggio, e quindi per me oggi poter parlare 5 anni dopo della Luna, ma da astronauta che è appena rientrato nella missione, è un privilegio ed è anche bello, anche un modo di celebrare la mia missione e questo straordinario effort umano di riuscire ad andare sulla Luna. E cosa vuol dire per me? È qualcosa di molto particolare. Io non ero ancora nato nel 69, sono del 76, quindi erano passati quasi 10 anni alla mia nascita dall'allunaggio, per cui iniziai a capire qualcosa della Luna, degli astronauti, molti anni dopo, quando avevo ormai 5-6 anni, insomma, da più grande. Eppure ho sempre avuto l'impressione di aver assistito anch'io a quella straordinaria avventura umana, perché io credo che sia rimasta in quella che possiamo chiamare una memoria collettiva. Allora, cambiamo subito la scaletta. Che cosa faremo in futuro nel corso della nostra vita? Mi chiedo spesso, riuscirò a vedere finalmente l'uomo su Marte, per esempio? Ma l'uomo su Marte è sicuramente un progetto molto affascinante. E come tutti i progetti affascinanti, presenta delle difficoltà e delle complessità straordinarie. Possiamo dire astronomiche in questo caso. C'è una tecnologia che non è ancora stata inventata che ci permetterà di andare su Marte. Non sarà, credo, la mia generazione a lasciare la prima impronta nella sabbia rossa del nostro pianeta vicino, ma saranno le prossime generazioni. Almeno io me lo auguro, e sono sicuro che c'è un grosso sforzo internazionale. Ci sono molti progetti molto ambiziosi, quello di, ad esempio, di fare un volo di avvicinamento a Marte, così come Apollo 8 fece la prima trasvolata intorno alla Luna. Ecco, si pensa di fare un sorvolo della superficie lunare di Marte con degli astronauti nei prossimi decenni, quindi prima del 2040, intorno tra il 2030 e il 2040. E allo stesso modo si pensa di poter andare su un asteroide Passeggiata spaziale. Luca Parmitano è stato il primo italiano ad uscire da quell'oblò. Allora, com'è? Qual è la prima sensazione? Beh, è un momento che non potrò mai dimenticare, che purtroppo è molto difficile descrivere, perché in realtà è un misto incredibile di emozioni che dividerei in due parti. Da una parte c'è l'astronauta che è stato addestrato a pensare in maniera razionale, a concentrare i propri pensieri su quelli che saranno i primi momenti e poi l'evoluzione dell'attività extraveicolare, come una coreografia perfettamente equilibrata, con degli spostamenti calcolati, delle tempistiche già previste. L'astronauta è lì a mente fredda. E io devo dire che l'addestramento, le centinaia e centinaia di ore passate sott'acqua, dentro una tuta in tutto e per tutto simile a quella che ero nello spazio, ha funzionato, perché io mi sentivo a mio agio, non ho avuto né la sensazione di cadere, non ho avuto la sensazione di trovarmi in un posto alieno, mi sentivo a mio agio, in quello che era il mio elemento di lavoro in quel momento. Dall'altro c'era l'uomo, l'uomo con tutta la sua emotività, che è giusto che ci sia, quindi a vari livelli c'è stato lo stupore di essere in un luogo così straordinario, dove non esiste la vita, dove la natura è estremamente cattiva, non è adatta a nessun tipo di vita, e comunque quindi lo stupore di poter esserci e di poterci lavorare, forse anche un po' di paura a un livello inconscio, quella tensione emotiva che ti dà anche l'adrenalina, che ti dà anche che è un po' il sale delle nostre esperienze. C'è stata l'ammirazione della bellezza, ancora una volta, perdonatemi, indescrivibile, io non ho le parole, di guardare il nostro pianeta separati da questa visione soltanto da un piccolissimo visore trasparente. E poi ricordo molto bene che forse più del momento in cui sono uscito, in cui ero così impegnato nella preparazione, quello che mi ha lasciato veramente senza fiato, mi ha tolto il fiato, è stata l'alba vista da un punto veramente privilegiato, perché io ho avuto una cosa che è un lusso straordinario per un astronauta durante un'attività extraveicolare. Ho avuto quasi 5 minuti di tempo libero, perché durante un movimento su braccio robotico, in cui dalla mia posizione d'ingresso mi trasferivo alla posizione di lavoro, avevo le mani libere e non avevo nulla da fare, e quindi ho potuto godere di un'alba, ho potuto fare delle foto, ho potuto anche pensare in maniera razionale, guarda dove sono. Ed è veramente un privilegio, un lusso straordinario che non scorderò mai. Direi che, per quanto tu abbia detto un paio di volte che è difficile descrivere, e siamo assolutamente consapevoli anche nel chiedertelo che è impossibile, però in compenso ci hai trasmesso davvero una grande emozione. Insomma, quel momento straordinario di una carriera che è lunga, che è formazione, che è pilota collaudatore, che è la scuola aeronautica, certo. Potremmo starci appunto un giorno per raccontare questo percorso. Io invece voglio andare dritto a un altro aspetto che lo trovo molto d'attualità, che è il ruolo che hai accettato di svolgere come ambasciatore del semestre italiano. Ritengo che sia un ruolo importantissimo. È una di quelle richieste a cui è impensabile dire di no. È stato un onore riceverlo, una grandissima gioia, ma poi nel momento in cui ho accettato, ho cercato di capire in che modo potevo dare il mio contributo, è stato anche una grossa responsabilità, e la responsabilità viene dal privilegio. Perché davvero vale la pena investire in Europa? Vale la pena perché l'Europa ci rende più forti. Prima ho parlato di un movimento globale di esplorazione. Bene, questo movimento globale nel nostro piccolo, come Europa, noi l'abbiamo già iniziato coinvolgendoci nell'Agenzia Spaziale Europea. Facciamo un esempio dell'Italia, l'Agenzia Spaziale Italiana. L'Agenzia Spaziale Italiana ha un suo essere individuale, in cui coopera in maniera bilaterale con la NASA, con altre agenzie mondiali, ma fa parte del consorzio europeo, dell'Agenzia Spaziale Europea, e dà il suo contributo. Quindi, ad esempio, il lanciatore Vega, che nasce come italiano, che però è un lanciatore europeo,